si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì, può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento del sabato mattina dalle 7.30 sino alle 10 con Si può fare, il buongiorno di Radio 24, nel weekend la domenica dalle 8.30 sino alle 11. Ritorniamo quindi in diretta in questo orario dopo avervi tenuto compagnia nelle settimane di festa, la sera insomma dalle 18 alle 20.30. E allora riprendiamo. Tra poco, dopo le 8, si potrà intervenire anche in diretta al nostro numero verde, come sempre ogni mattina. I nostri contatti per interagire in tempo reale con noi, ve li ricordo subito: il nostro account su Twitter è @sipoffare24, il mio @AleMaurizzi. Cominciamo, come sempre, con una buona notizia. And now, the good news! Prima di andare a sbirciare sulle prime pagine dei giornali di oggi, una notizia insomma da prendere con le molle, però quando si parla di sanità e soprattutto nel Lazio è sempre da prendere con le molle qualsiasi notizia, però questa volta la lista dei futuri dirigenti generali delle ASL laziali che sono arrivati in scadenza è una lista di 50 nomi selezionati dalla regione tramite una commissione ad hoc esterna di esperti. La regione Lazio, il presidente Zingaretti parlano di buona notizia perché il personale appunto che dirigerà le ASL nei prossimi anni non è selezionato per via politica direttamente ma tramite questa commissione di esperti esterni. Un'età media che si abbassa, curriculum in primo piano, molte donne. Staremo a vedere e anzi ci piacerebbe che insomma i cittadini del Lazio poi più avanti nella seconda parte del programma ci chiamassero per sapere se pensano che questa sia veramente una buona notizia. A me sembra di poter dire che sia così. Adesso andiamo sui giornali. Oh, naturalmente si parla soprattutto dell'incontro di ieri tra Letta e Renzi, ma anche della decisione dei giudici amministrativi del Piemonte che porterà questa regione probabilmente entro breve tempo a nuove elezioni. Poi si riaffaccia sulla politica anche Berlusconi che dice, propone l'election day e propone anche di candidarsi alle europee nonostante la sentenza Mediaset e l'interdizione dai pubblici uffici glielo vieti. Anche altre notizie vedremo, come per esempio oggi la manifestazione ai caselli delle autostrade del nord indetta dalla Lega Nord ma anche dagli autotrasportatori contro i rincari dei pedaggi appunto delle autostrade. Ma andiamo subito sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il TAR spinge il Piemonte al voto, la Lega protesta, Chiamparino si fa avanti per il Partito Democratico, annullate le regionali del 2010 per firme false, il presidente Cota però annuncia ricorso e dice vergogna. Dicevamo l'incontro di ieri tra Letta e Renzi, un patto di coabitazione, ma sulla legge elettorale ci sono divergenze. Trovata però l'intesa sui tempi della riforma, si farà prima delle europee. Le divergenze riguardano il fatto che Letta pone come paletto quello di trovare un'intesa prima all'interno della maggioranza, quindi tra il PD e il nuovo centrodestra e Scelta Civica, e poi allargarla se possibile anche all'esterno. Mentre, come sapete, Renzi gioca una partita più ampia per quanto riguarda la legge elettorale, che coinvolge anche SEL, Movimento 5 Stelle e Forza Italia alla ricerca di un'intesa entro insomma i primi mesi dell'anno. Questa è l'idea. Poi fotonotizia di Julie Gayet. Chi è costei? È l'amante, probabilmente, quasi con ogni certezza, del presidente francese François Hollande. Julie diventa un affare di Stato. Voci e foto su un settimanale francese Closer di un flirt all'Eliseo, l'ira di Hollande. La relazione segreta tra François Hollande e Julie Gayet diventa un affare di Stato. Il presidente minaccia querele alla stampa e l'attrice ottiene dal settimanale Closer la rimozione dal sito internet delle fotografie che testimoniavano il flirt. Però non c'è nessuna smentita della notizia. Direte voi chi se ne frega, forse avete ragione, ma su questi affari di cuore dei presidenti non si può fare a meno di parlarne. Tra l'altro Hollande se ne andava in giro per Parigi in motorino col casco per raggiungere l'amante e per un presidente non è proprio un comportamento come si può dire insomma in grado di per esempio di garantire la sua sicurezza in qualunque momento. E va bene, staremo a vedere. Dicevamo della intanto del Piemonte, perché ci sono due approfondimenti. Gianni Antonio Stella che dice: tutto cominciò con i boxer color Padania, maledette quelle mutande verdi, potete scommettere che Roberto Cota rimpiangerà a lungo di aver comprato, mettendoli in nota spese, quegli slip dai colori cari ai padani. Certo, aveva avuto anche altre grane prima, a partire dalle polemiche sulla parentopoli leghista alla regione Piemonte e la sua eccessiva devozione al Senatur. Poi c'è invece Aldo Cazzullo che scrive: i 45 mesi di incertezza del diritto, democrazia e giudici. Un paese in cui l'elezione diretta di un presidente di regione viene annullata dopo quasi 4 anni non è un paese serio. Vedremo più avanti magari di ricapitolare un po' le tappe di questa vicenda, perché non tutti hanno capito su cosa si basa o ricordano il su cosa si basava il ricorso di Mercedes Bresso. Su Repubblica, truffa della Lega, il Piemonte rivota, firme false, il TAR annulla la vittoria di Cota, Chiamparino che si candida, tocca a me. Queste le notizie. Poi sempre il patto tra Letta e Renzi, Berlusconi si ricandida, voglio fare il capolista alle europee. C'è spazio però anche per parlare di Fiat. Landini a Marchionne: solo aziende fantasma e promesse tradite, ma CISL e Will aprono all'amministratore delegato della Fiat. Vediamo brevemente di che si tratta. Arriva l'ok a Marchionne da CISL e Will. Il ministro dello sviluppo Zanonato che dice: lo incontro presto, questo dopo la chiusura dell'affare con Chrysler, ma anche dopo le dichiarazioni di Marchionne che, sempre a Repubblica, in un'intervista a Ezio Mauro, aveva parlato del futuro dell'azienda dicendo: usciremo dal settore medio-basso, punteremo all'alta qualità, rilanceremo l'Alfa, se tutto va bene rilanceremo la piena occupazione negli stabilimenti italiani, che per ora però non marciano a pieno ritmo. Da qui l'ira di Maurizio Landini, segretario della FIOM, che in un'intervista oggi a Repubblica dice: solo fabbriche fantasma, che fine hanno fatto le promesse del 2009? Il fatto è, dice Landini, che il giorno prima di queste dichiarazioni di Marchionne a Repubblica, a Torino la Fiat ci ha detto che il piano industriale non sarebbe stato pubblico prima di aprile e che comunque non lo avrebbe discusso né con il governo né con i sindacati. A Termini Imerese, ricorda ancora Landini, stanno chiudendo le aziende dell'indotto dopo che la Fiat se n'è andata. Tra qualche mese salteranno migliaia di posti e invece di un tavolo di confronto siamo alle solite relazioni sindacali fatte sui giornali. Cioè Landini ancora una volta chiede a Marchionne un incontro vincolante con i sindacati, piani industriali messi nero su bianco che non ci sono. Ci sono le interviste di Marchionne a Repubblica sui giornali, che certo hanno un valore perché lui è il numero uno della Fiat, però sono dichiarazioni, sono interviste, non ci sono piani con numeri certi, e questo non piace al sindacato dei metalmeccanici della CGL. Più possibiliste invece la CISL e la UIL, l'abbiamo già detto. Ancora Malandini dice: Volkswagen ed altri hanno continuato ad investire mentre la Fiat ha perso quote di mercato e ora intende uscire dal segmento basso. Una scelta sbagliata questa, secondo Landini. Allora, ritorniamo invece sugli altri giornali. Sempre per esempio Libero si occupa di come sopravvivere al casino sulla casa, la giungla delle tasse. IMI, scusate, qua ormai si fa confusione, non si sa più come si chiamano queste tasse. IMI, l'IMI non esiste. Allora, IMU, Mini IMU, IUC, TASI, TARI, il governo ha pasticciato al punto che nessuno capisce più e quanto deve pagare. Ecco, scrive Libero in prima pagina, una guida per evitare guai. Poi la lettura del caso Piemonte: i giudici votano al posto nostro, caos in Piemonte, elezioni nulle dopo 4 anni. A proposito intanto di economia, anche il Sole 24 Ore naturalmente ha un titolo economico, questa volta però è sul credit crunch, prestiti alle imprese, nuovo crollo a novembre, 16° mese consecutivo di credit crunch. Banca Italia dice che c'è stato un calo del 6% negli impieghi delle banche alle società, meno 1,5% alle famiglie. Se vogliamo c'è anche una semi buona notizia, rendimenti in rialzo. Non è questo, diciamo, il senso, nella prima asta dei bot dell'anno, rendimenti in rialzo ma di poco. E quindi scrive Isabella Bufacchi: Per il debitore lo Stato, l'asta dei bot annuali ieri è andata più che bene, anche se il rendimento è salito di un soffio, 28 centesimi rispetto all'asta di dicembre. Il costo della raccolta, rincarato allo 0,73%, resta estremamente basso. Questo dunque per quanto riguarda la prima asta dei titoli di Stato di quest'anno. Ma dicevamo, a proposito del caso Piemonte, andiamo a leggere su Corriere, all'interno del Corriere, che ci ricorda cosa è successo. Allora, alle regionali del 28 e 29 marzo 2010 vinse Roberto Cota con 1.043.000 voti e spiccioli. Sull'uscente Mercedes Bresso ferma a 1.033.000 voti e spicci, quindi circa 9-10.000 voti di differenza. L'ex governatrice ricorre al TAR e contesta quattro liste minori che erano alleate di Cota per questioni di apparentamento e per non aver raccolto le firme. Pochi mesi più tardi, il 30 luglio 2010, le motivazioni della sentenza del TAR dichiarano inammissibile il ricorso della Bresso contro una di queste liste, ma giudicano illegale la presentazione di altre due liste, Consumatori e Al Centro con Skanderbeg. Cota presenta un controricorso a sua volta al Consiglio di Stato. Il 20 ottobre il Consiglio di Stato accoglie questo ricorso di Cota, blocca il riconteggio delle schede e sospende la sentenza del TAR. Però il TAR prosegue il ricorso della Bresso sulla lista, quella che poi è arrivata, il ricorso che è arrivato a destinazione ieri, sulla lista pensionati per Cota. Con 27.797 voti la lista elesse il consigliere Giovine, che poi fu condannato per le firme false. 27.000 voti di Giovine condannato per le firme false. Questi voti, secondo la Bresso, erano illegittimi e giustificano, diciamo, l'illegittimità delle elezioni di Cota, che però poi naturalmente adesso, rispetto alla decisione di ieri del TAR, ha annunciato ricorso. Però la sentenza, ci ricorda il Corriere, è immediatamente esecutiva. Staremo a vedere anche qua. Sul Fatto Quotidiano invece c'è un'altra notizia e riguarda le inchieste sulla corruzione nella ricostruzione del terremoto dell'Aquila. Anche qua notizie che non avremmo voluto vedere. Che culo il terremoto, ci pappiamo tutti gli appalti, virgolettato, perché è quello che si sono detti alcuni soggetti. L'inchiesta sulla ricostruzione all'Aquila, le intercettazioni tra l'ex assessore Lisi e un architetto, con tutte ste opere che ci stanno, farsele scappare mo è da fessi. Ecco gli affari all'ombra del sindaco Cialente, che dice però non mi dimetto. Leggiamo, perché purtroppo ne vale la pena. Il terremoto è un colpo di culo. C'è qualcosa di peggio delle risate dell'imprenditore Francesco Piscicelli, che rideva, ricorderete, mentre ancora la terra tremava il 6 aprile del 2009 pensando agli affari della ricostruzione. C'è l'intercettazione dell'ex assessore comunale Ermanno Lisi, entrato in giunta in quota Udeur, un aquilano quindi ben consapevole della tragedia costata 309 vittime e la distruzione di un intero centro storico. È il 30 novembre del 2009, pochi mesi dopo dunque il terremoto, quando Lisi definisce il terremoto un colpo di culo. Sta parlando al telefono con l'architetto Pio Ciccone. Tu ancora non te ne stai a rendere conto, ma l'Aquila si è aperta, la possibilità saranno miliardarie. Io sto a cercare di prendere queste 160 case, se non le piglimo, non lo pigli più, questo è l'ultimo passaggio di vita. Dopo sta botta hai finito, o le piglimo, o le piglimo, o non le pigli più, risponde Ciccone. Esatto, continua Lisi, abbiamo avuto un culo di... del terremoto, interviene Ciccone. E Lisi conferma, il culo che in questo frangente, con tutte ste opere che ci stanno, tu ci stai pure in mezzo. Insomma, la ricostruzione è ovvio che è un affare per chi la deve fare, però tutto questo entusiasmo è veramente agghiacciante. Poi saranno i giudici, no? A stabilire se ci sono delle responsabilità. C'è un'inchiesta in corso. Velocemente sulla prima pagina del Giornale, dove ci si occupa della ridiscesa in campo di Berlusconi, la nuova sfida: Berlusconi si libera, il Cavaliere, la mia incandidabilità è illegittima, sarà sospesa, questa è una previsione quasi profetica, e sarò capolista alle europee. Poi c'è anche la notizia sui Marò, ora Letta si accorge che Marò rischiano la pena di morte. 800 24 00 24, però il numero verde cominciamo ad aprirlo dopo il giornale radio. Adesso vi lasciamo alla rassegna stampa europea, noi ci ritroviamo subito dopo il giornale radio, più tardi. sicuramente una delle ricette migliori sarebbe chiacchierare meno e lavorare di più, con impegno e serietà, cosa che in Italia non si fa assolutamente da tanto tempo, e ridurre almeno del 50% le inutili trasmissioni che parlano di scandali e scandaletti che non servono a niente. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, potete cominciare a prenotare il vostro intervento al numero verde 800 24 00 24 per commentare quello che sentite. Adesso riprendiamo, dopo una mezz'oretta circa il filo, riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, potete commentare quello che sentite, potete anche chiamarci come abbiamo fatto ogni sabato prima della pausa per le vacanze di Natale e di Capodanno, per chiamarci e dirci che cosa ha reso bella la vostra settimana, così nello spirito di Si può fare, il bello dell'attualità che cambia. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate. Tra l'altro i racconti più belli vincono anche oggi due biglietti per la mostra di Munch a Genova. Allora, riprendiamo a dare un'occhiata appunto alle prime pagine dei giornali. I titoli sono dedicati un po' alla vicenda della decisione dei giudici amministrativi in Piemonte di annullare le elezioni del 2010, ma anche l'incontro tra Letta e Renzi, le fotonotizie relative all'amante del presidente francese Hollande, l'attrice Julie Gayet e altro. Riprendiamo dal Corriere. Il TAR spinge il Piemonte al voto, la Lega protesta, Chiamparino si fa avanti per il Partito Democratico, annullate le regionali del 2010 per firme false, il presidente Cota fa ricorso e dice vergogna. Il commento di Aldo Cazzullo: i 45 mesi di incertezza del diritto, un paese in cui l'elezione diretta di un presidente di regione viene annullata dopo quasi 4 anni non è un paese serio. Commento diverso quello di Gian Antonio Stella: tutto cominciò con i boxer color Padania. A proposito della Padania, sulla prima pagina del Corriere si ricorda Dario Di Vico: il gennaio caldo delle autostrade, la mobilitazione del carroccio sui pedaggi, dalla mobilitazione del carroccio sui pedaggi alla minaccia di blocco dei tir. Comincia oggi con la protesta leghista, il gennaio caldo delle autostrade. Matteo Salvini, neo segretario del carroccio, si è intestato alla battaglia contro gli aumenti delle tariffe decisi dal governo. Sarà tecnicamente difficile che i leghisti possano fare vera disobbedienza tariffaria alle barriere del nord, ma la battaglia si annuncia dura. Tra poco andremo a vedere proprio sul giornale della Lega dove i punti, gli snodi, i caselli autostradali dove è stata annunciata questa protesta che ci sarà oggi alle 11 di mattina. Sempre sul Corriere: un patto di coabitazione tra Letta e Renzi, ma sulla legge elettorale ci sono divergenze. Trovata però l'intesa sui tempi della riforma, si farà prima delle europee. Le divergenze riguardano i paletti posti da Letta, che vorrebbe un accordo sulla legge elettorale all'interno del perimetro della maggioranza, dunque con un nuovo centrodestra, mentre Renzi ragiona su un tavolo allargato. Sulla stampa di oggi, il quotidiano di Torino, quindi, oltre alla fotonotizia, la foto della fuga d'amore di Hollande su una rivista francese, il presidente va a casa della nuova fiamma nascosto da un casco nero. L'attrice francese Julie Gayet sarebbe la nuova fiamma del capo dell'Eliseo, che minaccia querele ma non smentisce. Però sul quotidiano di Torino andiamo a leggere qualche approfondimento sulla situazione in Piemonte. Dice Cota: io sono oggetto di persecuzioni ogni giorno da 4 anni da parte di una sinistra che usa sempre gli stessi metodi. Quando non riesce a vincere le elezioni usa l'arma giudiziaria. Questa l'autodifesa di Cota dopo l'annullamento del TAR delle elezioni che lo hanno visto vincere nel 2010. Dice invece Mercedes Bresso, ex presidente: sia pur in ritardo, giustizia è fatta, una vittoria che dimostra quello che solo Cota è giovine. Il consigliere eletto con la lista pensionati per Cota, la lista dello scandalo, quello che solo Cota e Giovine non avevano ancora capito. Le elezioni sono state truccate, ora la giunta Cota non esiste più. Per il futuro si fanno avanti la figura di Chiamparino per il centrosinistra, pronto a candidarsi, lascerà la compagnia di San Paolo. L'ex sindaco dice: c'è la mia disponibilità a correre. Sul fronte del centrodestra si fa il nome di Crosetto, Guido Crosetto, l'ex onorevole del PDL, candidato ma non eletto con Fratelli d'Italia. Attorno al suo nome si prevede, si prefigura un asse Forza Italia Nuovo Centrodestra. Centrodestra che però, scrive la stampa, è ancora diviso. Il Piemonte sarà un laboratorio per il futuro. La domanda che tutti, che molti si sono fatti è: ma gli atti deliberati in regione dal 2010 ad oggi hanno ancora un valore oppure decadono, visto che il TAR, cioè i giudici, hanno annullato le elezioni? Rispondono gli esperti della stampa così: secondo i principi generali di diritto, gli atti ordinari adottati dal funzionario la cui nomina è stata successivamente annullata da una sentenza mantengono la loro efficacia. Questo a tutela sia della buona fede dei privati che degli interessi dell'amministrazione. Per gli atti di indirizzo, vedi per esempio la riforma sanitaria varata dalla giunta o quella dei trasporti, invece non c'è certezza. Cioè, per gli atti amministrativi che hanno concretezza c'è sicuramente certezza della loro validità. Sugli atti di indirizzo strategico e politico, a quello che scrivono gli esperti della stampa, che sono Alessandro Mondo e Massimiliano Peggio, invece non c'è certezza. Andiamo sugli altri giornali, per esempio sul Messaggero di oggi, che si occupa anche di altre notizie. Casa, detrazioni, Tasi nel caos. Che succede? E i comuni, sgravi nazionali di 150 euro, il governo punta a sconti in base al nucleo familiare. La prossima settimana verrà formalizzato l'emendamento al decreto enti locali con gli ultimi aggiustamenti alla Tasi, ma resta da precisare l'effettiva natura delle detrazioni, che potrebbero avere la forma di quelle già utilizzate per l'IMU, con una cifra fissa uguale per tutte le abitazioni, oppure essere lasciate alla discrezione delle singole amministrazioni comunali. Intanto sulle entrate fiscali spunta la beffa delle accise, l'aumento delle tasse su benzina e sigarette fa crollare i consumi e il gettito delle imposte. Vabbè, il caos, le tasse sulla casa è la notizia anche in apertura di Libero. Come sopravvivere al casino sulla casa, la giungla delle tasse, IMU, mini IMU, IUC, Tasi, TARI, il governo ha pasticciato al punto che nessuno capisce più quanto e quanto deve pagare. Ecco una guida, scrive Libero, per evitare guai. Ma tornando invece sul quotidiano della capitale di Roma, c'è una notizia che riguarda le inchieste sulla gestione dei rifiuti. Roma, l'affare rifiuti, nella rete di Cerroni, Lega Ambiente e il PD. Il RAS di Malagrotta e gli appoggi al Ministero. Nel mirino c'è anche l'ex commissario Sottile. Andiamo a leggere di che cosa si tratta questa inchiesta, che è destinata, scrive il Messaggero, ad allargarsi ancora. L'inchiesta sul RAS delle discariche Manlio Cerroni, che nonostante i suoi 88 anni si occupava di gestire direttamente i rapporti con le istituzioni e la politica. Le carte sequestrate nel corso dell'operazione di 2 giorni fa potrebbero chiudere il cerchio su un filone d'inchiesta attualmente stralciato, dedicato all'autorizzazione di impatto ambientale firmata dal commissario Sottile nel 2012, un via libera ottenuto grazie a forti pressioni e contatti con i massimi esponenti della politica, scrive il GIP Battistini, specificando che il riferimento è ai reiterati contatti, e questa è la notizia, anche personali, con parlamentari come Beppe Fioroni del PD, Ermete Realacci, e alle donazioni alla fondazione presieduta da Edo Ronchi. 20.000 euro gli sono stati dati nel 2008, oltre a vari politici di livello regionale. Se Ronchi ieri, scrive il Messaggero, ha respinto le accuse, è evidente che proprio nell'area di sinistra, della sinistra ambientalista, Cerroni trovasse i suoi alleati più fedeli. Ad accusarlo c'è anche un imprenditore, Fabio Altissimi, titolare della Rida Ambiente, che è colpevole di avere, fra virgolette, cercato di far concorrenza con un gassificatore autonomo nella zona di Latina. È un'inchiesta, ricordo, che ha 7 persone agli arresti domiciliari, tra cui lo stesso Cerroni, ma anche l'ex presidente del Lazio Landi e alcuni dirigenti della regione. 21 sono gli indagati. Le accuse vanno da associazione finalizzata al traffico di rifiuti, violazione di norme contro la pubblica amministrazione, truffa e abuso d'ufficio. Questo scrive oggi il Messaggero. Dal quotidiano della Lega La Padania, invece, andiamo a vedere di che cosa si tratta la manifestazione annunciata per oggi contro gli aumenti dei pedaggi autostradali, ai caselli autostradali. Io non pago, oggi presidi della Lega ai caselli, contro il caro autostrade e spese a spese del nord. Andiamo a vedere, stangata pedaggi, l'asfalto si arroventa ai caselli del nord. Arriverà al casello di Gallarate e dirà: io non pago. L'ha promesso il segretario federale della Lega Salvini e statene certi, manterrà la parola data. Così faranno altre centinaia di manifestanti che parteciperanno alla manifestazione organizzata dai giovani padani della Lega presso i principali caselli del nord, dove per esempio in Lombardia la barriera alla 4, la barriera di Sesto San Giovanni, oppure all'uscita Gallarate della 8 o all'uscita Bergamo della A4, oppure in Piemonte a Vicolungo, all'uscita per Tortona, all'uscita Serravalle, oppure in Trentino all'uscita della A22, alla Trento Sud, presidi sono annunciati anche in Veneto, in Emilia, in Romagna, in Toscana. Perché tutto questo? Perché all'inizio anno ci sono stati questi aumenti: a 9 Milano Como più 11%, a 8 Milano Varese più 6,25%, a 15 La Spezia Parma più 6,26%, oppure a 4 Verona Sud Trieste più 7%. La Lega, il quotidiano della Lega, ricorda che però ci sono il grande raccordo anulare di Roma gratuito 68 km, la A29 Palermo Mazzara del Vallo gratuita 119 km, la A19 Palermo Catania 199 km gratuita, la A3 Salerno-Reggio Calabria 495 km gratuita. Perché dobbiamo pagare solo noi? Questa è la domanda che si fanno gli esponenti della Lega. On the road, alle 11 in punto, l'appuntamento ai caselli. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, se qualcuno di voi si trova in giro per le strade del nord e intravede qualcuno di questi presidi, qualcuno di questi blocchi ai caselli, chiamateci per raccontarci qual è la situazione. Siamo curiosi di vedere se questa manifestazione andrà a buon fine, oppure se il segretario della Lega Nord, Salvini, è troppo preso dal caso Piemonte per andare a fare casino ai caselli autostradali. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'amore non è bello se non è litigarello. L'amore non è amore senza qualche batticuore. Salutiamo il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Voi grazie della Romagna siete abituati alle musiche, insomma, anche da balera di questo tipo. Lei dirà: ma perché ci avete introdotto con questa canzone? Ma perché la storia d'amore, ma soprattutto di d'odio a questo punto, tra i comuni e il governo centrale sulla questione dell'IMU, delle tasse sulla casa, è la telenovela di queste settimane. Sindaco, lei insieme ad altri sindaci dell'Emilia Romagna, ma non solo, siete protagonisti di una richiesta, di una battaglia, visto che c'è da pagare questa mini IMU, la rata, entro il 24 di gennaio. Voi dite, e tra l'altro avete ricevuto l'appoggio, credo, anche del Movimento 5 Stelle in Parlamento: facciamo una tassa sul gioco d'azzardo anziché pagare questa rata, è così? Sì, è così. Ci spieghi. Il gioco d'azzardo sono dati del Sole 24 Ore, quindi credo che vi faccia piacere che i ricetti dicono questo. Oggi il gioco d'azzardo vale come giro d'affari 100 miliardi, che è il 15% del bilancio dello Stato. Sono 200 mila miliardi delle vecchie lire. Mica poco. cioè è una cifra, è uno Stato nello Stato. 10 anni fa erano 10 miliardi, in questi 10 anni quindi si è decuplicato il giro d'affari. Sì. L'aliquota fiscale che fine ha fatto? 10 anni fa era del 30%, oggi è del 10%, cioè nel settore del gioco d'azzardo, dove c'è il dramma delle ludopatie, le tasse sono diminuite del 200%. Per me questa è una vergogna di Stato e noi proponiamo una cosa semplicissima, quasi banale, una mini tassa. Sì. Di 350 milioni di euro, che è un'inezia per quel settore, che consentirebbe di abolire l'IMU, della rata dell'IMU. Mi faccia dire una cosa sulla rata dell'IMU. Ieri. Sì. È uscita una nota del Ministero dell'Economia, del MEF, devono essere gli stessi tecnici che avevano chiesto indietro i soldi agli insegnanti, che dice che il termine del 16 di gennaio è per del 24 di gennaio. Sì. Per il pagamento è perentorio. Non è vero, perché c'è una legge del 1997 che era numero 446. Sì. Che all'articolo 52 dà ai sindaci, nell'ambito del regolamento tributario, la potestà che io ho usato e che molti comuni stanno usando. Sì. Di posticipare da data al 16 di giugno, quindi approfitterei di questa tribuna per chiedere al governo di correggere immediatamente quella nota del... Cioè sarebbe l'ennesima retromarcia, l'ennesima correzione, lei dice saranno gli stessi siamo tecnici nel... che hanno scritto quella norma. Sì, su, quella, sugli insegnanti. Si volevano prendere a schiaffoni gli insegnanti, guardi, in verità siamo nel caos, se mi può... Sì. Secondo me a Roma mi faccia dire solo, mi faccia dire solo una cosa, sindaco, poi naturalmente la faccio proseguire, perché di fronte a questa vostra proposta è davvero difficile essere obiettare qualcosa, essere contrario, perché voi dite insomma evitiamo questo balzello, si è fatto un grande sforzo per eliminare l'IMU, giusto o sbagliato, sicuramente sbagliato, per i contribuenti ormai è giusto, è per molti invece è sbagliato, per altri però questo abbiamo fatto, allora evitiamo questo balzello e facciamo una tassettina sul gioco d'azzardo che ha un monte, diciamo, una massa di risorse pari a 100 miliardi, quindi 100 è davvero ripetiamolo. Difficile darvi torto, però ripetiamolo, 100 miliardi. Sì. 100 miliardi. Però qual è l'accoglienza? Perché so che c'è stata una polemica con alcuni ministri del governo. Sì. Che è successo? C'è un muro di gomma sul gioco d'azzardo, è un muro di gomma di una gran parte dell'informazione della politica. Adesso però, diciamo, in questo momento la situazione è la seguente: c'è un nuovo impegno, il secondo del ministro Delrio, di provare a trovare una soluzione. È per questo anche che molti comuni spostano la data del pagamento. Cioè il ministro Delrio l'altro giorno, due giorni fa, mi ha confermato che proverà a trovare una soluzione. Le obiezioni tecniche del Ministero dell'Economia al nostro emendamento sono imbarazzanti. Sono imbarazzanti. Poi vede, sì? C'è un'altra polemica, ne approfitto. Sì. E il governo aveva detto abolisco l'IMU. Io non sono d'accordo, ma ormai è fatta, no? Cioè non sono d'accordo che sia stata abolita per tutti, ma lasciamo stare. E aveva detto noi copriremo le mancate entrate dei comuni. Ieri sera in una trasmissione televisiva una deputata del PD che si chiama Scani ha detto una cosa gravemente inesatta che io voglio correggere, anzi chiedo al capogruppo del PD Roberto Speranza di correggerla. Non è vero che nel 2013 2.400 comuni hanno corretto l'addizionale, non è vero, non è vero. È vero che in Italia ci sono 200 comuni che hanno l'addizionale, che l'avevano messa nel 2012. Il governo più volte aveva detto coprirò tutto. Poi ci sono stati 300 comuni che hanno aumentato l'addizionale, ma questo è un problema del rapporto fra il governo e quei 300 comuni. Il governo ha abolito l'IMU, secondo me sbagliando, abolendola per tutti. Mm. Si è impegnato più volte a coprire le mancate entrate, ha fatto marcia indietro, ha messo la stangata IMU, che è mini per me, che guadagno 3.500 euro al mese. Cioè lei dice, scusi, che non è esatto quello che sostiene il governo, cioè che sono quasi 2.000 i comuni... No, non il governo. Una parlamentare del gruppo PD. Sì, però il calcolo sulla copertura che il governo non riesce a fare ed è relativa a quei comuni dove è stata aumentata l'IMU nell'ultimo anno, su quello siete d'accordo, esatto? No, mi scusi, no, assolutamente. Il governo ha sempre detto, mi scusi, Sì. sempre detto, noi copriremo tutto. In Italia i comuni che due anni fa hanno messo l'addizionale sono 2.400, non sono, non è stata aumentata quest'anno a tassa abolita. Poi ci sono invece 300 comuni, sì, come vede sono 300 sugli 8.000 totali e 300 sui 2.400 che erano addizionali, che l'hanno aumentata anche nel 2013. Ok, adesso ho capito. Il governo ha sempre detto io coprirò tutto. Allora, intanto quando si parla, un parlamentare deve essere informato un po'. Mm. Secondo, il governo ha fatto un voltafaccia gravissimo. Terzo, c'è un problema che riguarda 300 comuni che hanno aumentato sì. nel 2000, a parte che non l'hanno fatto per divertirsi, ma perché sennò non facevano i bilanci. Ecco. Poi vorrei dire una cosa sul 2014, se posso. Sì, senta, però mi dica invece una cosa intanto su questa certo. tassa sul gioco d'azzardo, sì, però. Sì, intanto certo. qual è la sua previsione? Cioè lei pensa che alla fine la spunterete, questa minimu non si questa rata della minimu non si pagherà perché si riuscirà per esempio con la tassa sul gioco d'azzardo a spuntarla? Intanto guardi, noi siamo nel caos più completo. In realtà a Roma non si rendono conto che nel paese c'è una situazione assolutamente esplosiva e non so dirle perché era una cosa così semplice che non so dire se sono ottimista o pessimista, perché sono stupefatto che non sia stata accolta l'altro giorno con, ripeto, argomentazioni irrisibili del Ministero dell'Economia. Sono sempre quelli, secondo me, che vorrebbero prendere a schiaffoni gli insegnanti. Ormai l'impressione che ho, devo dirle qui da Ravenna, è che conti di più l'autista di un share del Ministero dell'Economia. Di caos se ne è visto, in effetti. Senta, caos, sindaco. Noi lo sa come chiamiamo, sì. È il sindaco di Rimini che mi ha suggerito la battuta. Le tasse sulla casa del 2014, sì. La famosa IUC, sì. Noi la chiamiamo in Atamaz, che in romagnolo vuol dire una cosa, è naturalmente una battuta, che vuol dire ti ammazzo. E se non cambiano la legge di stabilità nel 2014 le tasse aumentano. Aumentano. Senta, però mi dica una cosa, sì. A proposito di questa, lei ha detto c'è un muro di gomma sul gioco d'azzardo, sì, in Parlamento, sì. Quindi sarà dura spuntarla con una tassa, sì, guardi, ma guardi, questo muro di gomma, sì, è trasversale, cioè riguarda anche il suo partito, perché per esempio l'emendamento contro i comuni anti-slot, sì, l'aveva messo un onorevole del Nuovo Centrodestra, sì, sì, anche poi rivendicato da alcuni esponenti che non parlano di lobby ma dicono si doveva fare per compensare le minori entrate dei comuni, però sì, è stato firmato anche da esponenti del suo partito, quindi secondo lei c'è proprio una lobby parlamentare su questo, sul gioco d'azzardo? Guardi, allora intanto ringrazio i partiti e i gruppi politici che appoggiano il nostro emendamento, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Libertà, lei mi sta dicendo il Nuovo Centrodestra, va benissimo, il Partito Democratico, molti parlamentari del mio partito appoggiano il nostro emendamento, quindi ringrazio tutti perché in questo caso non c'entrano, diciamo, le divisioni politiche. Guardi, io penso questo, la buona politica e il riscatto di questa vergogna di Stato portano in un'unica direzione, cioè tassare il gioco d'azzardo e regolarlo per combattere le ludopatie. Dire di no, per capire, bisogna seguire, secondo me, il filo dei molti soldi che girano e delle lobby. Va bene, staremo a vedere se riuscirete a spuntarla. Ma guardi, io vi devo io ringraziare. Io mi auguro di sì, naturalmente. Sì. Vi posso ringraziare perché è la prima trasmissione, sì, in cui non trovo il muro di gomma sul gioco d'azzardo. Ve ne devo dare atto. Ah, no, guardi, con noi sfonda una porta aperta. Non so, ma io ho attinto i dati che le dicevo dal Sole 24 Ore. Sì. Poi naturalmente ho letto tutto perché in questi anni io sono l'ultimo arrivato, ci sono valorose associazioni che si occupano da anni, certo, di questo tema. Devo dirvi che voi, questa è la prima trasmissione dove siete voi che mi avete incitato a parlare. Grazie, ma sa perché? Perché io non è una crociata contro il gioco d'azzardo, ma no, è quello che ha detto lei, è una montagna mia di soldi che non, certo, non producono una vera economia. Ma certo. E quindi certo, una tassa su questo è sicuramente preferibile ad altre cose. Io la ringrazio, grazie, ancora, grazie, e le faccio in bocca al lupo per la vostra, grazie, battaglia. A presto. 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. buongiorno anche a Carlo Gabardini, di nuovo insieme a noi. Buongiorno, Carlo. Buongiorno a tutti. Come no. Si dice, buon anno? Buon anno? Tu lo puoi dire perché non ci sentiamo dal 2013. Esatto. Però questa è una grande questione secondo me, perché fino a quando? Nel senso è che vero. Ieri ho incontrato una persona e te non ci siamo ancora visti. Però se uno vede per la prima volta una persona il 6 di settembre, cosa si dice? Buon anno? È difficile questa cosa. Secondo me fino a giugno lo puoi dire, perché sei nella prima parte dell'anno, dopo settembre. E vedi, questa è la regola del giornalista. Essendo io stagista, è giusto che Sono venuto. È tutta la notte non che penso a questa cosa, a dire domani dirò buon anno, perché è difficile. Non so, l'11 di gennaio è un po' tardi. Se ti devi fidare molto dei miei suggerimenti da punto di vista. Sei il mio maestro, è quello che mi è stato assegnato. Hai sentito, Carlo, il sindaco di Ravenna che ci fa i complimenti, si può fare perché gli abbiamo dato l'assist sulla questione del gioco d'azzardo. Noi ho sentito. Ci battiamo su questa cosa. Sì, tantissimo. Sì, soprattutto troppo. Tu, posso dirlo? No, io non dico troppo. No, perché io. No, ma ripetiamo, non è una crociata contro il gioco d'azzardo, ma tutta questa montagna di soldi che producono un'economia sostanzialmente inutile, di fronte a tante tasse che si possono fare, perché non tassiamo quello, no? Beh, ma quello è stratassato, però, il gioco d'azzardo in realtà è stratassato, giusto? Ma si deve fare di più, si deve fare di meglio. Sì, sono pienamente d'accordo. 800 24 00 24. Tra poco sentiamo anche gli ascoltatori. Però intanto tu cosa ci hai presentato? Cosa ci porti oggi? Allora, intanto dico questa cosa, che è stata una settimana, mi spiace anche di non essere stato in onda, è stata una settimana perché sono in prova con uno spettacolo, come ben sai. È per quello che non sei stato con noi. Esattamente, sono in prova con uno spettacolo, quindi stanotte, prima di pensare al fatto di dire o non dire buon anno, ero a fare dei puntamenti luce dentro al Teatro Leonardo, perché lo spettacolo, lo dico, debutta oggi al Teatro Milano. Leonardo a Milano alle 20:45, lo spettacolo si chiama Amen, in scena va Walter Leonardo. Io l'ho semplicemente scritto insieme a lui, quindi non sarò in scena. In bocca al lupo. Crepi, anzi merda si dice, perché in teatro si dice merda. Diciamolo. Esatto, è così. E sei riuscito nel frattempo a studiare qualcosa per noi o hai assolutamente studiato solo per il tuo spettacolo? No, ci mancherebbe. Io in realtà voglio più bene Radio 24. Ormai, guarda, nel mio condominio sono passato da quello di Camera Caffè a quello e quello di Radio 24. E ne sono felicissimo, soprattutto mia mamma. E a proposito, visto che siamo ancora in clima post-natalizio, se vogliamo, ho trovato una notizia, direi, disgustosa, piuttosto disgustosa, che però va letta in chiave positiva, come solamente noi di Si Può Fare sappiamo fare. Ovvero, se voi pensate ad aver ricevuto il regalo più brutto di sempre, mettetevi in coda, perché secondo me non c'è limite al peggio. Ovvero, è stata inventata la candela che profuma di pollo fritto. E non è male, voglio dire. Nel senso che... Bisogna voler male a qualcuno. Esatto, e sta andando anche a ruba, pare. La candela è creata dal Kentucky Fried Chicken, appunto, negli Stati Uniti, ed è riuscito a ricreare il profumo del suo piatto più famoso, il pollo fritto. Pare proprio che dentro queste candele ci sia davvero del pollo fritto, cucinato secondo una ricetta segreta dello stesso Kentucky Fried Chicken. Ecco, non ce la riveli, secondo me, mai questa ricetta segreta, e noi ce la possiamo spalmare anche addosso per sapere di pollo l'anno fritto. Prossimo è il regalo che avevo pensato per te, questa. Grazie. Esattamente. Una notizia invece per tutti, e soprattutto per mia mamma: pare che le persone intelligenti tendano a bere più alcolici della media. Questa mi sembra una buona notizia, ed è uno studio pubblicato di recente sulla Review of General Psychology, quindi non è uno studio, diciamo, fatto da me e mio cugino per convincere mia mamma a stappare una bottiglia di spumante in più. E hanno fatto proprio uno studio, e a sorpresa pare che quelli più dotati intellettualmente sono risultati essere quelli con il vizio dell'alcol. Questo, secondo lo psicologo John D. Meyer, è perché le persone più intelligenti tenderebbero a fare maggiormente proprie le esperienze evolutive ed il consumo di alcolici. Ah, ecco, non è che bevendo si diventa intelligente. No. La premessa è che se sei intelligente bevi. Esatto, se sei intelligente vuoi fare più esperienze, tra queste esperienze quella di essere un alcolizzato. Non sappiamo se sia una buona idea o meno, ma comunque pare che sia così. E arriviamo invece al Paul Hellyer, che è l'ex ministro della difesa canadese, che in un'intervista ha rilasciato dichiarazioni straordinarie sugli UFO. Lui non è nuovo a queste iniziative, crede molto negli UFO, ma la cosa che mi sembra molto bella è quello che fa dire a questi UFO, al di là che loro esistono o non esistono. Lui dice che esistono tante diverse specie di extraterrestri, alcune dei quali avrebbero il nostro stesso aspetto e non sarebbe possibile distinguerli dagli esseri umani. E uno dice: beh, io ne ho in mente qualcuno così. Ma invece probabilmente no, perché in realtà questi extraterrestri sono molto preoccupati per il fatto che noi potremmo essere abbastanza, noi umani, potremmo essere abbastanza stupidi da voler utilizzare nuovamente la bomba atomica. Cioè vogliono aiutarci questi extraterrestri. Quindi che loro esistano o non esistano, il bello è che dicono che passiamo troppo tempo a combattere tra di noi, spendiamo troppi soldi per le spese militari e non per nutrire i poveri e curare i senza tetto e chi ne ha davvero bisogno. Quindi gli alieni vorrebbero aiutarci, insegnarci modi migliori per vivere. Ma questo... però aspettano sì. il nostro consenso. Pensano che non stiamo gestendo bene il nostro pianeta. Sono tutte parole queste, sono virgolettati, eh. Stiamo disboscando le nostre foreste ed inquinando i fiumi e i laghi. Riversiamo liquami negli oceani. Stiamo facendo una serie di cose che non andrebbero fatte se tenessimo veramente al nostro pianeta. Ma questo signore è un ex ministro o un ministro? Ancora non ho capito. È un ex ministro e va... E anche lui fa parte della categoria degli intelligenti. Forse ha bevuto un bicchiere di troppo. Beh, adesso ti leggo... purtroppo con la chiusa di questa intervista un pochino... rovina tutto quello che ha detto fino adesso, perché fino adesso secondo me le parole sono straordinarie. Sì. Va anche aggiunto che c'ha 90 anni, così diciamo, per completezza di informazione. Perché chiude dicendo che un paio delle loro donne aliene vanno in giro per Las Vegas vestite come suore e non vengono notate. Ora io non so a chi si riferisca, allora... ma diciamo che... però io direi, lasciamo stare il fatto se esistono o non esistono, ma prendiamo per buone le parole degli alieni che mi sembrano straordinarie. Vabbè, 800 24 00 24. Andiamo invece a sentire qualche ascoltatore che ci chiama, per esempio Luisa da Firenze. Buongiorno. Buongiorno Luisa. No, non c'è Luisa. Luisa è stata presa dagli alieni, forse. È la dimostrazione della veridicità della notizia che hai appena letto. Esatto. Claudio da Imperia, proviamo così. Buongiorno. Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo, prego. Buongiorno. Senta, ho sentito ieri che il TAR del Piemonte sì? ha accolto il ricorso della precedente presidente regionale. Certo, presso. Sì. Quindi questo significa che dal momento della sentenza l'attuale presidente Cota è decaduto, o dovrebbe essere tale. Sì, esatto. Sempre che non ricorra al Consiglio di Stato, ma il Consiglio di Stato, se il TAR ha visto i documenti che sono stati esaminati, anche il Consiglio di Stato dovrà confermare. Sì. Ora, Cota per 4 anni o 3 anni che siano, ha preso lo stipendio da presidente, tutte sì. le gratifiche come presidente, via dicendo. Ma questi soldi che ha preso sono stati rubati ai cittadini. Cota è un ladro e deve, oltre alla destituzione dalla carica, deve anche restituire tutti i soldi che ha preso. Ma, non so, non credo che sia così, perché ho appena letto. È stato presidente abusivo. I soldi presi sono abusivi. Sì, ma diciamo, il fatto che fosse abusivo è stato certificato ieri dal TAR, sì, e quindi non può essere retroattivo, non può andare indietro. Infatti non si annullano, per esempio, le decisioni prese dalla regione, quindi in questi anni è stato in carica legittimamente, quindi anche il suo stipendio. Mi dispiace deluderla, ma non ci sarà restituzione, credo. Poi magari mi sbaglio. Grazie Claudio. Michele dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Potete raccontarci anche che cosa ha reso bella la vostra settimana? Io lo ricordo agli ascoltatori, perché anche oggi il racconto più bello, a giudizio insindacabile nostro, vince i biglietti della mostra di Munch a Genova. Una coppia di biglietti. Prego Michele, lei cosa voleva dire? Niente, io volevo... È la Come prima niente? Volta che riesco a parlare in 55 anni con uno di voi. Ah, però con uno dei media, sì. Spero che non siano 55 anni che ci provate, voglio, però sì. Sì, che ascolto, vedo, rifletto, osservo, però cioè non ce la faccio più a non dire nulla. Dica tutto, ma faccia una sintesi, perché 55 vero, anni sono tanti. Da riassumere in 2 minuti. Oppure la richiamiamo tutti i giorni. Non ho il dono della sintesi, in effetti. Però volevo soltanto dire una cosa semplicissima: perché nessuno di voi, ma non voi, lei direttamente, ma tutti i giornalisti, mi rendo conto che sono pagati, quindi devo rendere conto, cioè le regole del gioco le stabiliscono e le fanno chi ha il potere, no? Ma allora, qual è il punto, appunto, Michele? Sì. Di 4 anni sì. che Letta ha preso i soldi dalle lobby del gioco d'azzardo. Sì. Cioè, perché non lo si dice più spesso? Perché continuano a prendere in giro la gente? Cioè, io odio l'ipocrisia, la falsità di questo paese, l'italiano passivo. non riesco a comprendere perché, però mi rendo conto che Michele, questa cosa, qua, questa cosa qua la dice, per esempio l'ha detta in Parlamento anche l'onorevole Sibilia, credo, del Movimento 5 Stelle, che la Fondazione Vedrò di Letta ha preso i soldi dalle, dei finanziamenti, delle sponsorizzazioni da alcune aziende che si occupano di questo. Può darsi, io non lo so, non ne ho le prove, può darsi. Le aziende finanziano tanti settori. Il punto poi è giudicare, sì, le politiche che vengono fatte. In effetti, come ha detto il sindaco di Ravenna, e su questo sono d'accordo con lui, in Parlamento c'è effettivamente un muro di gomma su questi argomenti, che potrebbe dimostrare anche quello che dice lei. Però non ne abbiamo le prove, almeno io non le ho. 800 24 00 24. Però, ascoltatori, vogliamo anche che ci chiamiate dai caselli autostradali del nord, dove certo, oggi c'è la protesta contro il rincaro dei pedaggi. A dopo, Giornale Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori e ben ritrovati. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, per commentare quello che sentite, ma anche per raccontarci che cosa ha reso bella, per esempio, la vostra settimana. I racconti più belli, come ogni sabato, riprendiamo dopo la pausa natalizia, vincono due biglietti per la mostra di Munch a Genova. E vorremmo anche che qualcuno ci chiamasse, anche se il presidio della Lega ai caselli autostradali del Nord Italia è annunciato per le 11 di questa mattina. Se qualcuno è già nei paraggi, vede movimento, oppure se qualche automobilista che ci sta ascoltando alla radio adesso è intenzionato, per esempio, ad accodarsi per cercare magari di scroccare il pedaggio, perché quello che ha promesso Salvini è di non pagare proprio. Accodarsi è proprio perfetto. Uno si accoda, passa e non paga, e intanto fa anche una protesta contro questi rincari che ci sono stati, del 6, 7, 8, 10%. A proposito di trasporti, c'è una notizia importante che viene dalla Toscana, una notizia per certi aspetti storica, perché la regione, Carlo, sì, ha deciso di disdire il contratto con Trenitalia per il trasporto pendolari. Cioè, noi da quando siamo nati, da sempre, c'è solo quello, c'è solo l'FS quello. In realtà, beh, quando siamo nati possiamo dire che siamo un pochino più anziani, diciamo, abbiamo più di 4 anni, poi è diventato Trenitalia. No, ma infatti è curiosissimo, sì, perché non sapevo neanche che si potesse fare questa cosa. Ma infatti, secondo me non lo sa quasi nessuno in giro, non solo loro, non solo in Toscana, perché una notizia del genere viene anche dal Veneto. E è stato sentito qualche giorno fa il presidente del Veneto Zaia da Radio 24. Noi adesso invece sentiamo l'origine della notizia, il presidente della regione toscana Enrico Rossi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, siete voi che avete dato per primi il via a questa cosa, che potrebbe anche essere una specie di slavina che smuove un po' tutto. Intanto ci dica esattamente i contorni di questa notizia. Che cosa avete annunciato qualche giorno fa? Beh, noi abbiamo detto che vogliamo procedere nel 2014 ad una gara per l'assegnazione della gestione del servizio ferroviario nella nostra regione, ciò che non è alta velocità, insomma, per capirci. Sì, perché non siete soddisfatti, e questo è il punto. Come non sono soddisfatti, sì, io questo l'ho dato per scontato, i molti pendolari che si trovano con code, ritardi, treni sovraffollati, freddo d'inverno, caldo d'estate, questo lo sappiamo. Dei treni, poi se vuole ne parliamo, io sì, ci sono anche montato la mattina per vedere di persona, e continuerò a farlo, insomma, è noto a quei 3 milioni di pendolari che tutti i giorni prendono i treni regionali per recarsi al lavoro e alla scuola. Ma noi crediamo prima di tutto nelle liberalizzazioni, ecco, questo è il punto. Pensiamo, perché ride, Presidente? Perché ride questa cosa? No, perché a volte, insomma, si pensa alla Toscana come alla terra di chissà quali impianti statalistici. Allora, sì, c'è la sanità pubblica, e questa vogliamo mantenerla anche nel senso della gestione, ci sembra più sicura. E però, che devo dirle, abbiamo privatizzato il trasporto su nave, quello della Tirrenica, insomma, per l'Elba e per le isole, con una gara pubblica, mentre altre regioni non le hanno fatte. Poi entro giugno assegneremo, sempre con gara pubblica, ci sono 6 concorrenti, sì, tutto il trasporto su gomma su tutta la regione. Abbiamo messo insieme 14 aziende, fatti tutti i conti, e andremo ad individuare un unico gestore, baraccando quindi 14 consigli di amministrazione, eccetera. E adesso siamo intenzionati anche a fare, faremo anche la gara per il trasporto su ferro. Naturalmente, però, è questo che chiediamo al governo. Bisogna che il governo ci metta in condizione di farla, perché per quello, sì, che finora sono riuscito a capire, bisogna che il materiale rotabile di Trenitalia transiti al nuovo gestore, almeno in grande parte, e almeno quello più moderno e più efficiente, altrimenti nessuno potrà mai partecipare alla gara se il materiale rotabile non transita. Si intende materiale rotabile vagoni e treni, ecco. Sì. Io ho acquisito questo linguaggio da ferrovieri, ma è questo. Insomma, ha toccato impararlo. Senta, però, qua... E poi dopo sì. Ci vogliono anche i depositi, ecco. E allora qui il compito è del governo e dell'authority, che mi sembra sia a Torino. Bisogna che perché dice mi sembra? Perché questa authority in effetti è un po' vaga ancora. Che brava, comunque ha capito bene. Sì. È un po' vaga. È un no, po' ma vaga. Diciamolo anche agli ascoltatori, perché aspettiamo che entri. È stato istituito questo authority, sì, per la mobilità, che deve dettare le leggi, quindi tutelare i cittadini e anche garantire la libera concorrenza appunto nelle gare. Ma se andiamo a fare una gara e diciamo i presupposti non consentono a chi la vuol fare di partecipare, e allora diventa. Perché mi faccia fare questo inciso, giusto che, visto che lei giustamente l'ha ricordato, cioè il meccanismo previsto insomma, già qualche anno fa è un po' questo, cioè aprire al privato anche un settore come quello dei trasporti, cosa che già di fatto è in alcuni settori, però prevedere un'autorità pubblica che detti un po' le regole del gioco, in maniera che poi diciamo i clienti, gli utenti, i consumatori, gli automobilisti o i pendolari eccetera, non si trovino senza punti di riferimento. Però questa authority ancora non ha preso quota, questo è un po' il punto. Non ha ancora preso quota, e quindi il governo deve intervenire. Ora io sì. Ho avuto contatti con il ministro Lupi, che per alcuni aspetti insomma non condivido e con cui mi capita fraternamente di litigare qualche volta, e altre volte invece siamo d'accordo, ma su questo punto della liberalizzazione mi è parso ben intenzionato. Però non prendiamoci in giro, ecco. Quali diciamo sono così, però i bisognerebbe che gara fosse gara, so che Moretti ha partecipato per Trenitalia a qualche gara in Europa eppure l'ha vinta. Sì. Ecco, io chiedo che le stesse condizioni che Moretti ha trovato in Germania, sì, dove mi sembra ha vinto un trasporto regionale importante, siano garantite ai francesi e ai tedeschi che vogliono partecipare alla gara in Italia. Poi non si preoccupino i sindacati, ad esempio noi nella gara regionale per il trasporto su gomma, sì, abbiamo inteso con i sindacati un accordo, e l'accordo prevede che siano tutelati i lavoratori, ovviamente, insomma, sì, tutte le cose che in questo senso è giusto ammettere, soprattutto per noi, insomma, noi in Toscana abbiamo a cuore che i lavoratori non si trovino in difficoltà. Però pensiamo che dalla gara può venire fuori un bel risultato per perché i nostri cittadini. Ci ricordi una cosa, cioè l'ultimo contratto che avete firmato, cosa prevedeva? Cioè un stanziamento di quanto intanto da parte della regione? Di un prolungamento di 5 anni, è stato nel 2009. Le regioni hanno avuto il trasporto, sì, su ferro nel 2004. E penso che lì c'è il baco, insomma, perché noi in modo un po' ingenuo, un po' ebete, accettammo pensando che poi insomma le cose si sarebbero aggiustate in una fase successiva. In realtà era un secolo fa, 2004, poi ci sono stati, come sappiamo, i vincoli legati al patto di stabilità, l'impossibilità di fare investimenti, e adesso non solo abbiamo treni vecchi e non riforniti neanche nei tempi previsti dai contratti, ma è carente anche tutta la rete ferroviaria. Io non sono contrario all'alta velocità, cioè i binari, insomma, cioè sì, l'elettrificazione, cioè tutte quelle tecnologie che servono per rendere più automatici gli autotismi sui binari, per garantire anche maggiore puntualità, per garantire volumi di traffico più alti. RFI ha speso pochissimo sui treni regionali, mentre si è speso tutto sull'alta velocità. Io sono favorevole all'alta velocità, sì, non però non dimenticando anche l'altro versante, che è quello dei pendolari. Senta, però 90 miliardi, scusi, Rossi, treni regionali troppo poco, e tra l'altro il numero dei pendolari è anche aumentato. Però una domanda, ma non Rossi, è paragonabile, guardi, quello dell'alta velocità con quello, sì, dei pendolari. No, ma infatti dicevo, è aumentato il numero dei pendolari, ma non sono aumentati di pari passo, anzi sono diminuiti i finanziamenti. Questi sono numeri, gli stanziamenti statali su questo settore strategico, insomma. C'è vera concorrenza? Cioè, attualmente in Italia ci sono delle compagnie, sì, oltre a Trenitalia, che potrebbero entrare in questa gara, una gara internazionale, voi dite, potrebbero arrivare anche compagnie, che so, tedesche, inglesi. Sì, noi bisogna assolutamente fare una gara internazionale, perché questo è previsto anche dalle normative europee. Sì, poi io mi auguro che ci siano anche italiani interessati, LTD, questa di Montezemolo e della Valle, io non sono affatto contrario. Quella di Italo? Quella di Italo, sì. Ecco, quella di Italo, non sono affatto contrario, insomma. Poi ci saranno anche altri vettori. A me pare meno francamente credibile questa idea, ma ognuno fa come crede, di costituirsi il proprio sistema, la propria azienda regionale, insomma. Io credo che su queste cose è bene lo Stato garantisca un hardware, lo Stato garantisca che ci sono binari efficienti. E qui in Toscana a noi basterebbe, siamo disposti a metterci il 50%, guardi, non le dico tanto, basterebbe per rendere i binari, sì, efficienti, garantire un investimento intorno a 600 milioni. Non è tantissimo, un investimento ventennale, si può prendere un mutuo, quindi con una ricaduta assolutamente sostenibile. Potremmo sistemare la Viareggio Firenze, che è veramente all'origine di tutti i nostri, sì, problemi, e migliorare la Siena Firenze, che è un'altra. Vabbè, questi poi sono aspetti, per certi aspetti locali. Ma la notizia è questa, va bene. Per mettere a posto i binari sono intorno a 600 milioni. Poi con altri 200 milioni di materiale rotabile, 250. Sì, adesso però non ci faccia l'elenco della spesa, perché sennò se no ci fa sentire in colpa che non arrivano abbastanza soldi, anche perché, mi scusi Presidente, ma tutte le regioni poi hanno le loro peculiarità, però la notizia da cui siamo partiti è questa, ed è comunque una notizia destinata a smuovere un po' le acque, per migliorare, l'obiettivo è questo, la vita dei pendolari, ed è questo che muove, e credo l'abbiate capito, cari ascoltatori, la Regione Toscana, il Presidente Rossi, che è stato con noi su questa notizia. Grazie, in bocca al lupo, ci sentiamo più avanti quando ci saranno aggiornamenti su questa cosa che riguarda anche il Veneto. Grazie Rossi, buona giornata. Arrivederci, grazie. 800 24 00 24, cari ascoltatori, arriviamo subito dopo il traffico. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo con Giovanni che ci chiama da Cuneo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ma guardi, io sono passato, sì, adesso davanti al casello di Carmagnola, non c'è assolutamente nulla, e invece tenevo a dire questo. Attenzione, che questi signori della Lega, sì, loro poi non pagheranno niente, sicuramente, sì, perché onorevoli cose. Ci sono le telecamere, se uno passa, che è successo a me una volta, sì, poi mi è arrivata una bella, ah, certo, multa a casa. Ah, ecco, sta dicendo che siccome ci sono le telecamere, in realtà poi le multe però non arriveranno agli onorevoli, ma arriveranno solamente, esatto, ai cittadini. Bravissimo, questi furbetti giocano poi sempre così, e pantalone paga, vai avanti tu che mi viene da ridere. Conviene salire sulla macchina degli onorevoli, direi, e lasciarla proprio al di qua del casello. Grazie, buona giornata. A lei. Grazie. Patrizia da Bergamo, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Anche lei, allora, si trova al casello autostradale, no? No, no, guardi, ne ho visti alcuni però già ieri a Bressa. Di cosa? Però... di caselli? No, erano dei manifestanti a stagione. Ah, e cosa, com'è la situazione? Ci racconti un po'? Beh, erano piuttosto agguerriti. Ma chi erano? Cioè, avevano le bandiere della Lega? Il popolo dei Forconi. E ancora, no, il popolo dei Forconi, sì. Non mi è sembrato di vedere maglie della Lega, c'erano bandiere dell'Italia. Sì, sì. No, perché ma forse erano tifosi. Forse no, erano manifestazioni diverse. Oggi c'è quella della Lega ai caselli, ieri questa sempre per strada c'erano le proteste, che sono un po' ritornati i Forconi, anche se sì, pochi, molto pochi. Patrizia, lei invece che cosa ci voleva raccontare? È una storia diversa. Bene. Allora, bene, guardi, l'argomento sono gli edredoni, sono degli anatidi. No, mi scusi, aspetti un attimo, già di nuovo, due parole, esatto, che non abbiamo capito. È mattina. Pronto? Ripeta con calma, perché non abbiamo capito. Allora, l'argomento è edredoni. Uh-huh. Si tratta di un anatide islandese che si è fermata sul lago di Como, perché qui c'è un particolare crostaceo e quindi che loro mangiano. Il problema è che non riescono a nidificare. Ma lei perché, quindi, ci ha chiamato? Scusi, perché qui ma non lei è, per chi tifa? Non siamo la redazione di Nature, la rivista scientifica, non ho capito. Mi sto sentendo molto ignorante, mi scusi. Sì, anch'io, terribilmente. Ah, c'è biologia oggi forse, perché sono le 9:30. Di scienza, Patrizia. No, guardi, ci tiri fuori dall'impiccio. Questa è la mia attività del weekend, quindi, e noi abbiamo costruito sì? una specie di isolotto favorire... la nidificazione. A questa arriva, quindi è una buona notizia. Beh, buono. Però mi ripeta cosa è che sta nidificando lì da voi? Allora, non a Bergamo, si tratta di Varenna, sì? dove ci sono due esemplari di edredoni che purtroppo non riescono a nidificare perché la zona è piuttosto cementata. E voi avete costruito. Ma, ma cosa sono gli edredoni? Le chiedo scusa, io sono ignorante. Allora, guardi, edredoni chi su Google, perché c'è proprio una... Vabbè, me lo spieghi lei, ma perché tutte le volte dire cerchi su Google? Ce lo spieghi, telefona, se no adesso io guardo su Google e poi la richiamo fra un'oretta. No, vede proprio l'anacide, sì. Va bene. Un soggetto piuttosto interessante. Però siamo in radio, non è che possiamo chiedere a tutti i nostri ascoltatori allora, di andare su Google. Se lei ce lo racconta è meglio. È un volatile, un volatile. Almeno che capiamo che stiamo parlando di uccelli, già è qualcosa. E lei e il suo fidanzato avete costruito un isolotto per questi edredoni? Sì, e abbiamo anche piantato delle canne nella speranza che scendo riescano anche a proteggere le uova. E funziona? Questo non lo sappiamo, vediamo in primavera. Va bene, questa comunque è una bellissima storia. Grazie Patrizia, che si candida diciamo a cosa ha reso bella la vostra settimana. Esatto. Direi impegno... che si candida anche a una cosa che racconteremo domani, del fatto che magari la richiamiamo per sapere se gli edredoni hanno nidificato nelle canne. Va bene, non diciamo niente di più. No, è un'anticipazione così. Che facciamo? Andiamo, restiamo in Toscana, perché abbiamo sentito prima il presidente Rossi a proposito dei pendolari. Adesso c'è un'altra notizia che riguarda niente po' di meno che il Maggio fiorentino. Camminare senza fretta ad arrivare, camminare per il gusto di partire. Casa al vento come un cane, sogni in tasca e cominciare a camminare senza mete da evitare. Tourner mindre. L'onda in mezzo al mare, camminare liberi di naufragare. La notizia è questa, che da qualche giorno è stato fatto un accordo che consente al Maggio fiorentino, questa prestigiosa istituzione culturale italiana, di tornare a camminare, proprio come dice anche la canzone dei Modena City Ramblers, sulle sue gambe. Ed è una notizia attesa. Ricordiamo, per esempio, l'appello che avevano fatto Elio e le Storie Tese. Risentiamolo. Cari amici, siamo Elio e le Storie Tese. Ciao. E siamo d'accordo con il maestro Mehta. Non lasciamo morire il Maggio musicale fiorentino. No. E ve lo dice gente di un certo livello. Oh. Con gli attributi, insomma. Ecco, questo era l'appello di Elio qualche mese fa, qualche tempo fa, forse un anno fa. Ha funzionato. Di acqua sotto i ponti ne è passata. Noi abbiamo convocato il commissario straordinario del Maggio fiorentino, Francesco Bianchi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Avete siglato qualche giorno fa un accordo, credo, con i sindacati delle maestranze, insomma dei lavoratori, un accordo che da una parte taglia un po' di personale che verrà trasferito altrove. Si era parlato a proposito del Maggio di carrozzone, perché va bene l'istituzione culturale, come diceva Elio, è importantissima, però se eravamo arrivati al collasso finanziario, qualche cosa da cambiare ci doveva essere. Un piccolo stanziamento del governo col decreto valore e tac, il gioco è fatto, il Maggio fiorentino si rimette in piedi. Lei sarà soddisfatto, immagino, di questo risultato? Io sono molto soddisfatto, perché in quasi un anno di lavoro, da una situazione che era drammatica, siamo tornati ad una situazione nella quale il Maggio pensa al suo rilancio. Avevamo una situazione che dal punto di vista economico, patrimoniale, finanziario, organizzativo e funzionale era disastroso. Ecco, ci dica due paroline per ognuno di questi problemi, così capiamo. Dunque, il problema finanziario, allora, c'era un debito, di quanto? Il debito era di 35 milioni di euro. E l'avete... Il debito nei confronti di banche soprattutto, sì? Nei confronti di fornitori. Questo debito è stato ridotto per effetto di un accordo di stralcio fatto soprattutto con le banche, sì, che ci hanno abbonato l'80% del loro credito. Cioè vi hanno fatto un regalo debito. Praticamente? È stato un accordo di ristrutturazione in cui debito. Siamo riusciti a strappare meno male. Queste condizioni. Qualcosa ci ha messo anche il governo, credo, qualche milione, 5 milioni. Il governo ha messo soprattutto una legge, la legge sì. Valore sì. E Cultura, che è una legge il cui impianto è ottimo, almeno per le fondazioni liriche, sì. Perché consente alle fondazioni disastrate come era la nostra, tutta una serie di operazioni, perché ne crea le premesse, per esempio la cessazione dell'efficacia dei vecchi contratti integrativi aziendali. Vabbè, insomma, un intervento legislativo, adesso è difficile entrare anche nei dettagli tecnici, che consente esatto. Appunto alle fondazioni di riprendere il cammino. L'altra cosa importante che qualcuno ha contestato, questa riduzione del personale. Io però devo dire, 49 persone in meno che vengono trasferite dal maggio ad altre attività del Ministero dei Beni Culturali, che lei ha detto giustamente, qualche problema organizzativo, gestionale c'era, evidentemente bisognava intervenire, lei credo che difenderà questa scelta. La difendo e come, perché voglio dire, la legge consente la mobilità, quindi sì. Nessuno va a casa sì. Per effetto della riduzione dell'organico e consente di razionalizzare molto e guadagnare quindi in efficienza per il maggio musicale fiorentino. Carlo Gabardini le vuole fare una domanda, tra l'altro attore, sceneggiatore, quindi fa parte anche un po' di questo mondo del teatro. Sì, le faccio forse una domanda stupida, ma ci spiega in 30 secondi che cos'è esattamente il maggio musicale Bravo, fiorentino? Perché ho la sensazione che molte volte si parli di questa istituzione, ma non tutti sappiano che cosa sia e che cosa conta, diciamo, di quanto valga per tutto il paese. Cioè in Toscana lo si conosce molto bene, secondo me a Bolzano meno, ecco. Scusi, non ho capito, che cos'è il maggio? Che cos'è il maggio fiorentino? Cioè, Carlo Gabardini le ha chiesto di dire in 30 secondi, in un minuto, l'importanza, no, del maggio fiorentino. Allora, il maggio fiorentino è la seconda più importante fondazione lirica italiana, mm-hmm. dopo la Scala. Organizza il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, che è il più antico festival musicale italiano, è uno dei tre più antichi festival musicali europei insieme a Bayreuth e a Salisburgo. Ecco, mi sembrava molto importante ripetere queste cose, perché io casualmente, io non so niente perché sono ignorante, ma questa casualmente la so perché mi occupo più di spettacolo che di altro, e mi sembrava importante che i nostri ascoltatori ricordassero che cos'è, sennò si parla sempre di una cosa e uno non sa esattamente cosa perché sia. Dice, è stato salvato il maggio fiorentino, siamo tutti contenti, esatto, però che cos'è? Esatto. Va bene, la comunque complimenti, congratulazioni, intanto perché questa prestigiosa istituzione culturale italiana va avanti su basi forse più sostenibili, forse è questo il messaggio in cui ci possiamo lasciare, commissario Bianchi, su basi rinnovate e sostenibili. Sperare di non ricadere in futuro perché c'è stato tra l'altro anche una riduzione, credo, no? Di una parte delle retribuzioni, anche questo è un aspetto. Sì, c'è stata una diminuzione delle retribuzioni sì. dei lavoratori. I sindacati hanno mostrato molta responsabilità, sì. di questo dal loro atto. Ecco, per esempio, non so, così giusto per dare un metro di misura, no? Oggi si fa così. Di quanto sono state diminuite queste retribuzioni? Quant'è la retribuzione media di un dipendente del maggio? Il contratto integrativo sì. nuovo diminuisce del 30% il peso dell'integrativo. Se lei fa 100 il costo aziendale sì. prima del nuovo contratto integrativo sì. oggi il costo aziendale è 84, quindi una diminuzione insomma del 15% del costo aziendale sì. E quanto resta in tasca a un dipendente medio del maggio, non so, un musicista dell'orchestra? I dipendenti medi del maggio hanno avuto una distribuzione sì. rispetto al loro lordo sì. del 7%. No, ma quanto resta in tasca? Cioè, dal punto di vista, se si può dire, si può dare questa misura? Guardi, è molto difficile fare una media, perché la media non ha senso tra masse artistiche e, per esempio, sì. operai di palcoscenico, sì. non ha nessunissimo senso. Ma comunque, mediamente... mediamente la diminuzione del loro lordo, sì, ripeto, è del 7%. No, ma la diminuzione abbiamo capito, mediamente quant'è lo stipendio di un orchestrale, per esempio? Un professore di orchestra guadagna lordi qualcosa come intorno a 55.000 euro, da 45 a 55.000 euro l'anno. Beh, insomma, un bello stipendio, quindi una riduzione è sicuramente tollerabile da questo, sì, punto di vista. Grazie, sì, ancora al commissario Bianchi del Maggio Fiorentino, in bocca al lupo, a presto. Prossimi impegni, prossimi appuntamenti? Il rilancio del Maggio, il festival, sì, di Maggio, che sarà molto bello dal punto di vista della produzione artistica. Grazie, grazie, a mille, grazie, arrivederci. A voi. Grazie, grazie. Torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24. Si può fare ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora abbiamo Franco che ci chiama da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io volevo parlare in merito all'intervento del sindaco che voleva tassare di più il gioco d'azzardo. Sì. Bisogna togliere uno zero alle cifre che ha detto il sindaco. Siamo sotto gli 8 miliardi di entrate per lo Stato e il, sì, sindaco considera... Ah, no, beh, certo, ma lui parlava del giro d'affari, credo, non delle entrate. Il giro d'affari, sì, ci sono anche le vincite. Sì. Quando uno gioca, se le slotti adesso su 100 euro che entrano, 74 almeno devono essere erogati lì. Sì, sì, e sì. Quindi la cifra va molto abbassata. Poi vorrei far presente, dato che io lavoro con le slot, che l'ultimo... Sospettavamo che ci fosse questo. Ma veramente viene dato 74% in vincita o poi in realtà non viene dato 74% in vincita? No, no, non te lo diranno mai. No. Sono controllate elettronicamente, sì, cioè, sì, in tempo reale, sia le entrate che le uscite. Questo per le slot nei bar. Sì. Le videolottery pagano molto di più ancora. Ecco. Tenete conto che l'ultimo aumento di 10% delle aliquote, sì, unito anche alla crisi, ha portato un calo di 750 milioni di gettito. Quindi se aumentiamo ancora il settore collassa e l'IMU sulla prima casa va raddoppiata, anche perché di tagli lo Stato non ne fa di sicuro. Tutto qua. Vabbè, non è che si vive solo di video poker, no, o di slot, no, cioè si carità, può fare anche dell'altro. Sì. Visto che Bondi c'è stato un anno ed è riuscito a fare 1 miliardo di tagli, a farne 4 ci vuole 4 Bondi, o no? 4 Bondi è un'immagine che non vogliamo immaginare, neanche immaginare. Grazie. O vedremo cosa farà Cottarelli. Sì. Ma lei, scusi, Franco, cosa fa? Va in giro, diciamo, cosa fa? Il distributore di gestore. Cioè ha una sala con le slot? No, sala non ne ho. Io li installo nei bar e via. Infatti adesso sto andando a fare una riparazione. Ma lei lo fa per un concessionario o è lei stesso un concessionario dello Stato? No, i concessionari sono 10 in tutta Italia. Oltretutto, sì, i concessionari erano nati per controllare noi. E fino qua mi va bene. Ma gli è stato dato la possibilità di avere delle macchine, quindi il controllore controlla se stesso. E poi si parla tanto di conflitto di interessi. Bravo. Questo mi sembra un problema. Ci sono delle cose che non vanno, là dentro. Ma l'ha detto... non ne parla mai nessuno. Adesso siamo qua a parlare. Grazie, Franco. Tra l'altro, tempo fa era intervenuta anche l'associazione dei gestori dei giochi, insomma, aderente a Confindustria, che aveva detto qualcosa da cambiare c'è. A livello insomma di regole, forse di tassazione, quindi una missione anche da parte dei gestori, probabilmente. Franco, non so se è un aderente o no, ma questo era. Va bene, dove andiamo? È arrivato un bel sms, sì, che, sì, dopo la notizia che ho dato della candela al gusto di pollo fritto di disgustosa, esattamente, che di Marina, che dice che l'ha ricevuta in regalo e quindi le chiediamo di chiamarci, che così ci racconta un po' questa candela al gusto pollo fritto. Oppure c'è un altro sms, come si chiamava l'ascoltatrice che ha chiamato da Bergamo, quella degli Ebredoni, che tra l'altro si candida al che cosa ha reso bella la vostra settimana. Come si chiama? Mi ricordo molto bene Ebredoni, perché devo andare a guardarlo su Google. C'è un ascoltatore che dice: questa le canne se le fuma, perché in effetti la telefonata di Patrizia sulle canne all'interno del lago di Varenna per gli Ebredoni come isolotto, era abbastanza così magnifica. Andiamo, dove andiamo? Un'altra ascoltatrice, Marinella da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Tocca a lei. Niente, io volevo raccontarvi la mia esperienza di questa settimana. Sì? Siamo riusciti a fare ricoverare in una comunità ad alta protezione di recupero un amico che ha 50 anni compiuti, e di solito in queste comunità ti prendono fino ai 50 anni, quindi ci eravamo già rassegnati purtroppo. Questa persona che appunto ha problemi di schizofrenia legati poi anche all'uso di alcolici, è un alcolizzato e fa uso di droghe leggere. Quindi io lo aiutavo per quanto possibile, e finalmente questa settimana invece hanno accolto la nostra richiesta. Bene, bene. In bocca al lupo per lei e per il suo amico. E questo è sempre un tema delicato, le strutture di accoglienza per il disagio psichico, per questo tipo di sofferenze. Anche perché non sapevo che ci fosse un limite, che bisogna essere entro i 50 anni. Anche questo è strano. Perché uno dopo 50 anni. Evidentemente, non può essere... ogni tipo di struttura avrà delle regole, sai? L'Italia è il paese delle regole. Esatto, delle regole, tantissime regole, di modo che inutili. Poi. Esatto, non le devi seguire, perché è impossibile seguirle tutte. Daniela da Genova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, volevo dire cosa ha reso bella la mia settimana. Oh, ci siamo tutti orecchi. Io sono. In questa settimana sento malissimo perché c'è il ritorno. Noi la sentiamo bene. Noi la sentiamo bene invece. Forte e chiaro, limpida. Ok. Niente, io sono lavoro in una grande azienda nazionale e sono in cassa integrazione come tanti. Sì. E questa settimana è arrivata, cioè avevo organizzato una riunione con un grosso ente di finanziamento europeo. E per un progetto. Sì. E questa settimana mi ha telefonato, in cui sono in cassa integrazione, mi ha telefonato questo ente dicendo che accoglieva con piacere, insomma, il fatto che si potesse andare avanti con questo progetto, e naturalmente non è detto che vada tutto in porto, eccetera, però per me in questa condizione è una bellissima notizia. Cioè, lei racconti il progetto. Dalla cassa integrazione l'hanno chiamata per questo progetto che potrebbe avere sviluppi per la sua azienda. In due secondi, qual è il progetto? Il progetto è entrare a far parte delle smart city di tecnologia. La sua azienda di cosa si occupa? Di automazione. Va bene, Daniela, grazie. Grazie mille. E in bocca al lupo. Arrivederci. Anche lei si candida, Adesso poi più avanti vedremo e daremo i biglietti della mostra di Muse. Il responso. Siamo andati a ripescare il ballo del mattone, indimenticabile. È il nostro ritornello. Passato, Ale, è così. No, beh, questo è ancora più in là, forse. Se no sembra che abbiamo 100 Io anni. Ho 96 anni, lo sanno tutti, quindi... Perché? Perché il ballo del mattone? Perché purtroppo quello a cui assistiamo nell'inchiesta sulla ricostruzione all'Aquila è il ballo del mattone. Cioè, hai visto le intercettazioni pubblicate oggi dal Fatto Quotidiano? Sono, come direbbe Crozza imitando Conte, agghiaccianti. Che culo il terremoto, ci pappiamo tutti gli appalti. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano di oggi. La notizia è che, insomma, tra questi indagati nell'inchiesta sulla ricostruzione, che è diversa da quella che avevamo già sentito, era la notte famosa del terremoto. Questo sei mesi dopo, ci sono un consigliere comunale dell'Aquila e un architetto che tra loro si sfregano le mani dicendo: ah, che bello, faremo la ricostruzione. Villette come tangenti, ma anche assunzioni con maxi stipendi come tangenti per ottenere gli appalti della ricostruzione. C'è chi va per un'altra strada, per un altro verso completamente, e sono i protagonisti della costruzione di un ecovillaggio a Pesco Maggiore in provincia dell'Aquila, una vicenda che ci va a raccontare Dario D'Alessandro, che è il presidente del Comitato per la Rinascita di Pesco Maggiore. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. intanto. Grazie a voi. Non le... ancora ho letto però le intercettazioni sul fatto. Non le ha lette? Quello che è uscito dalla stampa fino a ieri. Sì, no vabbè, queste sono non, solo... Non le lega, che fanno malissimo. Fanno male. Sono solo gli aggiornamenti per quanto riguarda questa inchiesta, in cui insomma penso che gli abitanti delle zone interessate a questa vicenda seguano con tristezza. Con la dovuta attenzione. Sì. Anche con un po' di amarezza o con rassegnazione? No, perché con rassegnazione. No, rassegnazione nel senso che non è bello. No, dico, non deve... possiamo non ricostruire la città perché qualcuno se ne approfitta. Sì. No, però dico, non deve essere bello vedere, assistere a queste cose qua. Voi che cosa avete realizzato? Io ho detto Eco Villaggio, questo è quello che hanno scritto i giornali, che ha scritto per esempio Andrea Bertaglio in un bel articolo. Un villaggio fatto come? Pronto? Un villaggio fatto, sì, mi sente? Sì, sì, la sentiamo. Ok, sì. Allora, ecovillaggio nel senso che è stato realizzato in legno, paglia, con impianto di depurazione e utilizzando energia del sole per riscaldare l'acqua. Mm. Bello, bellissimo. Ci invoglia a venire lì a vivere però. Pronto? Chi voglia venire qui a vivere lo speriamo, nel senso che ciò che ha spinto il comitato a promuovere questa iniziativa è stata l'urgenza di provvedere all'emergenza abitativa. Sì. Scusami se parlo un po' piano, però mi torna un parte del... E deve spegnere la radio. Indietro. Ah, non ce l'ho accesa. Allora non lo so. Noi però allora, la sentiamo bene. La sentiamo bene. Allora, ci ricordi com'è nato questo comitato per rispondere prima di tutto all'emergenza abitativa? Il comitato nasce da prima, di questa idea dell'ecovillaggio nasce nel luglio del 2009, quando eravamo ancora nelle tendopoli della protezione civile e si costruiva il progetto case, che è stato poi un... Vabbè. È stata una grande occasione di cose poco chiare. Quello di cui parlavamo prima, insomma. Alla scelta delle ditte. Sì, sì, sì. Ci sono delle inchieste e va bene. E infatti è questo l'incipit da cui siamo partiti. Ci dica però, cerchi di raccontarci così alla radio con parole che ci descrivano, perché io ho visto le foto, è tutto molto bello, interessante. Case appunto di legno, di paglia. Le case di paglia. Sicuramente sono antisismiche prima di tutto, no? E questa è già una cosa. Sono antisismiche perché portano una struttura in legno con dei tiranti in acciaio. Sì. E sono anche molto calde. Sì. Che all'Aquila è importante. Sì. E quindi ti dicevo, ciò che spingeva era l'emergenza di poter avere delle case per rimanere a vivere in paese. Perché all'epoca la protezione civile non prevedeva un intervento qui in paese, si sarebbe dovuto spostare di svariati chilometri. Mm. Quante persone sono coinvolte, signor D'Alessandro, in questa ecovillaggio? No, una sola. A quante persone? Sì. Sì, una decina. Tra persone che vi abitano e persone che hanno quotidianamente contribuito a realizzare il progetto, più centinaia di persone che sono venute concretamente a darci la mano. E anche incuriosite, credo, dal progetto. Tra l'altro ne stanno nascendo un piano piano di esperienze simili, al di là della vicenda del terremoto dell'Aquila, come soluzione abitativa diversa, con appunto soluzioni di efficienza energetica, utilizzo del legno e di altri materiali naturali anche in altri posti d'Italia. Pensate di crescere? Avete il pensiero, la prospettiva di allargarvi, oppure siete contenti così per ora a Pescomaggiore? Il pensiero di far crescere il paese intero, l'ecovillaggio sorge a 300 metri dal borgo antico, in tutto il paese ad oggi siamo 30 abitanti, 50 anni fa erano 200, l'idea dell'ecovillaggio era anche un modo per rilanciare la possibilità di vivere in borghi di montagna. Noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, così col desiderio di venirvi a trovare prima o poi. Nel frattempo ci possiamo soddisfare la curiosità guardando le foto, chi fosse curiosito basta andare su Google, ecco il villaggio di Pescomaggiore, trovate tutto. Grazie Dario D'Alessandro. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, a presto. Lavoro. 800 24 00 24. Si avvicina l'ora del presidio ai caselli autostradali, che è previsto per le 11. Chissà se riusciamo a sentire qualche ascoltatore che è già ma in coda. Ma noi ci andiamo, giusto? Noi prendiamo la macchina, certo, e andiamo là, di sicuro? Non lo so, pur di passare gratis a un casello, proprio. O per fare la cronaca di questo evento straordinario. È vero, mi dimentico sempre che tu sei un giornalista e io no. Traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, intanto abbiamo già avuto contezza, come direbbe Alfano, del fatto che sono iniziati un po' di disagio ai caselli, qualche blocco, a Gallarate. Hai sentito? Sì, c'è sì, qualcosa. Sì. Quindi, insomma, ma devo dire che questa cosa dei Salvini, al di là della protesta, che non so, sì, non è che prendo posizione, però ammetto che questo fatto, cioè gli aumenti che al TG erano stati annunciati come del 3% massimo, 1%, 0,2%, che in alcuni, che su alcune tratte siano del 400%, sì, diventa insostenibile. No, è vero che uno dice vabbè, erano 50 centesimi, adesso è 2, ma 400%, se uno l'ha, sì, fatto tutti i giorni quella strada lì, è un problema. No, ma anche aumenti del 10-11% sono comunque alti, perché se pensi che l'inflazione è molto più bassa. Ieri a Radio 24 l'amministratore delegato di Atlantia, Castellucci, che è concessionario delle autostrade, ha detto che gli aumenti sono, cioè che le tariffe sono in regola con quelle europee, che non sono più alte che altrove, eccetera eccetera. Il punto però l'ha toccato prima il presidente della Toscana Rossi, quando ha detto aspettiamo che entri in funzione questa benedetta authority dei trasporti, perché finché non c'è questa authority, chi ci garantisce che il gioco tra concessionario e lo Stato funzioni e non vada invece a tutto discapito dei consumatori, degli automobilisti, dei pendolari? E questo secondo me è un punto importante, perché manca, certo, un tassello di questa vicenda. Però torniamo agli ascoltatori e andiamo ad Anna Maria, che ci chiama da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo raccontare appunto la sì, storia di questa settimana che mi è successo. Dunque, qui a Firenze il martedì c'è il più grosso mercato della città, le cascine. Sono andata, è piena di gente naturalmente, e io ho perso il portafoglio, insomma, si vede, mi è scivolato, l'ho perso. E era insomma un problema, perché sono una pensionata, non è che avessi una grossa cifra, ma 70 euro più tutti i documenti. Sì. Insomma, tornata a casa disperata, dopo 2 ore mi ha telefonato una signora dicendomi che l'ha trovato e addirittura me l'ha portato fino a casa. Non mancava niente, non ha voluto niente, solo un caffè ho potuto offrire. Ma che meraviglia. Ma scusi, sì, come ha fatto però a trovare il suo numero di telefono sull'elenco? Il numero di telefono, no, c'avevo io, siccome il mio cellulare a mente non me lo ricordo, sì, perché non mi telefono mai. Allora, beh, giustamente, allora la battuta è ottima, signora. Ho messo un bigliettino col numero, questo cellulare mio. Brava. E lei ha provato a chiamarmi su questo cellulare, mi ha trovato. Ma lo sa che è successa anche a me la stessa cosa, e io non avevo messo il numero di telefono, mi hanno trovato invece su Facebook. Ma davvero? Sì, ma anche perché scrivere cellulare mio è proprio bello. È bellissimo. Se dovesse vincere il premio come miglior notizia della settimana, però ci deve andare insieme alla signora. Alla signora che mi ha ritrovato. Sì, assolutamente, sì. Alla mostra di Luca Genova si deve portare la signora. Va bene, Anna Maria, grazie. Grazie, si candida, assolutamente. Assolutamente, sì. Adesso tra poco sveliamo chi vince, però questa è alta classifica, direi questa. Alta classifica, siamo già in zona, zona Champions. Maria, sì, dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, io chiamo dalla provincia di Modena, da San Felice sul Panaro. La buona notizia per noi è che i nostri ragazzi delle medie, 270 ragazzi, dopo circa 2 anni sono rientrati in una scuola di muro, perché sono stati nelle tende, nei container, e adesso finalmente hanno riavuto la loro scuola. Bisogna ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i benefattori che ci hanno pensato da tutta Italia. E la notizia è bellissima. Intanto. Scusi, mi sono perso un passaggio. La scuola è stata ristrutturata o costruita ex novo? Sì, sì, è la vecchia scuola. La vecchia scuola ristrutturata. Quella che era stata colpita dal terremoto è stata, sì, ristrutturata, resa naturalmente antisismica, ci sono stati, sì, fatti dei lavori. Ed era 2 anni che andavano a scuola in tenda, giusto? No, sono andati in tenda e nei container. Nei container. Sono 270 ragazzi, sono 11 classi. Beh, è molto bello che ci siano 270 ragazzi finalmente felici di entrare a scuola, direi. Tutti giusto? Tutti gli altri del nostro istituto comprensivi, che sono più di 1000 ragazzi, perché noi facciamo una popolazione di ragazzi di 1200 euro, sì, sono in edifici scolastici temporanei, sono moduli temporanei, e quando uno bussa sul muro e di cartongesso. Ma voi siete quindi tra i primi forse che riuscite nella vostra zona? Nella scuola di Muro siamo, penso, che siamo rientrati dopo il terremoto nei nostri comuni, penso che siamo gli unici in una scuola di Muro, perché sì, l'unica scuola ristrutturata è la nostra, gli altri sono tutti in quelle costruzioni che sono state fatte dopo, che sono di cartongesso, insomma, costano miliardi, ma non sono di Muro. Va bene Maria, grazie. Grazie mille. In bocca al lupo, buon lavoro. Beh, questa, anche questa è alta classifica sicuramente, sì, sì, sicuramente Modena. Notizia. Adesso potremo anche arrivare a premiare, secondo me, tre persone con due coppie e sei biglietti. Vediamo, vediamo. Sentiamo Stefano che ci chiama da Genova, buongiorno. Salve, buongiorno. No, io volevo solamente scherzare a proposito, sì, di quei droni nei canneti che non riescono a edificare. Non mi ricordo più il nome. Non sono droni. Gli ebredoni, gli ebredoni, no, i droni. Cioè. Sì, sì, ma lei infatti, ne sa qualcosa? L'ha presa per i fondelli, diciamo. Non era. Comunque, no, la mia notizia. Cioè, lei ha chiamato per prendere per i fondelli, no, la guarda signora. Guarda che c'è anche appena arrivato un SMS che dice: per l'ignorantone come quel tizio che ha mandato messaggi sulle canne, l'edredone è una specie rara di anatra selvatica. No, no, ma per carità, per carità. Anche qui nel torrentello sotto casa vedo dei fenicotteri qui nell'interno. Ma faccia qualcosa anche lei per farli edificare. Però io sono molto contento invece che la settimana me l'ha risollevata di un mio collega, sì, un valido fresatore, tornitore, parliamo di aziende metalmeccaniche, sì, che dopo 2 anni di interinale con ditte esterne, 2 anni a tempo determinato, sì, sembrava che lo lasciassero a casa perché c'era un minimo di, diciamo, mancanza di lavoro, invece seguendo il mio consiglio ha chiamato direttamente il datore di lavoro che gira un po' parecchio, in Turchia specialmente. Cosa è successo? L'ha tenuto e quindi. Va bene, Stefano, Stefano, dobbiamo chiudere qua. Dobbiamo chiudere qua. L'amico in cassa integrazione che è stato tenuto al lavoro. Allora, vincono a giudizio insindacabile della redazione Daniela da Genova in cassa integrazione, ma con speranze per il futuro. Anna Maria da Firenze ha recuperato il portafoglio coi soldi. Maria da Modena sono tornati nella scuola. Ci mettiamo dentro anche Stefano da Genova col cassa integrato? Ma sì. Ma secondo me sì, vincono tutti loro. Però direi che Maria da Modena, dobbiamo, è importante chiudere, che i due biglietti vengano dati a qualcuno di quei 270 studenti, dobbiamo che poi chiudere, raccontino. Dobbiamo chiudere, questi sono i vincitori, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti, ciao. Buona giornata. Ciao.